Ok, è vero, il tema della gratitudine va molto di moda in questo momento su internet e tra tutti gli autori che ne parlano forse quella più insistente su questo tema è Assunta Corbo. Ha scritto anche un libretto molto semplice, agile, snello, proprio sul tema della gratitudine. Si intitola Dire, fare, ringraziare. C'è sempre un motivo per essere grati. Vi lascio poi il link in descrizione se siete interessati. Se effettivamente iniziamo a sperimentare la gratitudine, ci renderemo conto che ha un potere incredibile di trasformazione sulla nostra vita. Anche Gesù era una persona grata, sapeva vivere momenti di gioia e di allegria, sapeva incontrare le persone trovando sempre in esse il positivo, sapeva guardare la natura, guardare il mondo intorno a sé con uno sguardo veramente contemplativo e grato. Da questo punto di vista è abbastanza famosa la pagina di Matteo 6 in cui Gesù dice quelle splendide parole: guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori del campo, non lavorano, non mietono, non filano, eppure gli uni hanno sempre da mangiare, il Padre loro celeste provvede sempre il cibo per loro, e gli altri hanno vestiti meravigliosi che mai nessun uomo, neanche il più potente della terra come Salomone, si è mai potuto permettere. E non farà così il Padre vostro celeste anche per ognuno di voi? Non affannatevi dunque per il domani. Rimanete sul presente, sembra dirci Gesù. In fondo la gratitudine è proprio questo, la capacità di rimanere fissati sul presente e di accorgerci che nulla ci manca di quello di cui abbiamo bisogno in questo momento per essere felici. Uno dei pallini di Assunta Corbo riguardo alla gratitudine è il diario della gratitudine. Di che cosa si tratta? Semplicissimo. Si tratta di prendere un quaderno, un diario, di scriverci sopra una bella etichetta, un bel titolo, il diario della gratitudine, e tenerlo sempre a portata di mano. E ogni giorno, oppure due o tre volte alla settimana, alla sera principalmente, preferibilmente, scrivervi due, tre, cinque motivi per il quale oggi noi possiamo essere grati. In un altro video vi dicevo che esiste un semplicissimo esercizio di soli 3 minuti per ritrovare la serenità, proprio focalizzandoci sulle cose per le quali possiamo essere grati. E pensate un po', se soltanto 3 minuti ci ridanno serenità, esprimendo gratitudine, pensate come potrebbe diventare la nostra vita, come potrebbe cambiare se la gratitudine diventasse un'abitudine quotidiana. Ecco, il diario della gratitudine ha proprio questa funzione: permetterci di sperimentare in modo costante, in modo continuo, questo grande potere della gratitudine. Quindi, dopo che ti sei procurato questo diario, inizia ogni giorno oppure qualche volta alla settimana a scrivervi almeno 3 cose per il quale sei grato. 3 cose, non 20. In queste cose credo che sia meglio essere maratoneti, lenti e costanti, piuttosto che 100 metristi che magari fanno uno scatto, scrivono moltissime cose ma poi si fermano spompati. Quello che paga in questo, come in tantissime altre cose nella nostra vita, è proprio la costanza, il ripetere quotidianamente qualcosa che ci rende migliori. Se lo farai, ti renderai conto di una lenta trasformazione che giorno dopo giorno prenderà corpo nella tua vita. Ecco infine alcune indicazioni pratiche perché il diario della gratitudine possa veramente trasformare la tua vita. Primo, cerca di essere il più possibile specifico, ovvero non solo che buona cena, ma che buoni i maccheroni e che buono il sugo che li accompagnava. Non solo che bella passeggiata che ho fatto, ma anche che bello il fiore, che splendido profumo che aveva. Secondo, scrivi soprattutto cose che non puoi né acquistare né comprare, come la salute, il corpo, il sole, la pioggia, tutte le meraviglie della natura. Terzo, focalizzati di più sulle persone che sulle cose, cercando di accorgerti di tutte le persone intorno a te che rendono la tua vita più ricca e più bella. Quarto, cerca di accorgerti delle sorprese, di quelle piccole cose inaspettate, ma che se te ne accorgi possono veramente trasformare la tua giornata. Un incontro inatteso, un sorriso di un bambino, un regalo, un pensiero, una telefonata da una persona che proprio non ti aspettavi. Infine, quinto, bellissima questa raccomandazione di Assunta Corbo che mi ha veramente toccato nel profondo, ovvero cerca di goderti e di essere grato anche delle cose che stanno finendo. Che cosa voglio dire? Ti è mai successo di andare in vacanza, che ne so, una vacanza di 7 giorni, e fino al quinto giorno te la godi fino in fondo e poi nel penultimo e nell'ultimo giorno cominci già a pensare al ritorno e quindi non ti godi quegli ultimi 2 giorni di vacanza, di serenità, di distacco dalla vita quotidiana. Quindi cerca di essere anche grato e di goderti fino in fondo quelle cose che stanno finendo. Credo che il diario della gratitudine possa anche essere visto come una forma di preghiera. In fondo, ogni grazie, ogni espressione di gratitudine può anche diventare una preghiera di gratitudine verso Dio. Grazie, Signore, di tutte queste cose che mi doni. Non so se succede anche a te di vivere molto spesso la preghiera come preghiera di domanda. Certo, Gesù ci ha detto di chiedere e di essere anche insistenti nella preghiera. Ma d'altra parte, credo che la preghiera di ringraziamento colma di gratitudine per il mistero della vita, dell'amore, di tante cose che Dio continuamente ci dona, possa essere veramente la forma più bella, più piena di preghiera. Se sei d'accordo che la gratitudine possa migliorare la nostra vita, allora condividi questo video e iscriviti al canale YouTube se ancora non l'hai fatto e attiva la campanella così ti arriveranno le notifiche ogni volta che inserirò un nuovo video.